Nessuno è illegale, mai. Aprite le frontiere, aprite gli occhi. Appello ad agire il 20 giugno 2020, giornata mondiale del rifugiato. Partecipare localmente. Corona ci impedisce di incontrarci e noi allora ci sparpaglieremo. Unisciti all'azione di solidarietà transnazionale ovunque tu sia e dimostra che la lotta contro le politiche razziste delle frontiere continua. Il 2020 ha dimostrato, come mai prima, che nel mondo di oggi la parità di diritti per tutti gli esseri umani è ancora un obiettivo lontano. La situazione delle persone migranti nella maggior parte dell'Europa e in altre parti del mondo è vergognosa. I campi lungo le frontiere esterne dell'Europa sono sovraffollati, quelli dentro i paesi europei ancora attivi. Molti migranti sono ancora privi di documenti e vivono per strada. Anche in questi tempi i governi ignorano i cittadini delle persone rifugiati e migranti. In generale, sono stati i gruppi di solidarietà, le ONG, i cittadini e le cittadine coraggiosi e coraggiose e le stesse persone migranti che hanno contrastato la minaccia della pandemia. Vogliamo attirare l'attenzione sulla situazione dei migranti, aprire gli occhi del grande pubblico ed esigere una solidarietà concreta. Perché vogliamo assolutamente che questa situazione finisca dal momento che si basa su leggi e decisioni politiche che possono e devono assolutamente essere cambiate. Chiediamo di fare delle azioni per il 20 giugno, giornata mondiale del rifugiato. Noi, chi siamo? Siamo attivisti antirazzisti, attiviste antirazziste di diversi paesi europei che hanno formato il progetto Coste in Solidarietà. Il nostro obiettivo principale era quello di evidenziare e sostenere la lotta dei migranti lungo il confine britannico, chiuso lungo la Manica e il Mare del Nord durante questa estate. Volevamo organizzare eventi portuali, diffondere idee di solidarietà e utilizzare il veliero Lovis per ottenere una maggiore attenzione pubblica. Per ovvie ragioni abbiamo cancellato questi piani, dato che le condizioni di vita delle migranti non sono affatto migliorate. Abbiamo concordato modi alternativi per aumentare l'attenzione e la pressione dell'opinione pubblica. Maggiori informazioni su https://costinsolidarity.noblogs.org. La nostra proposta di azione. Abbiamo escogitato un'azione comune alternativa, una flottiglia di barche di carta con sopra brevi messaggi come apri i tuoi confini, apri i tuoi occhi, scappare non è un crimine. Apparirà ovunque. Tutti possono piegarle, piccole e grandi, colorate e non, e distribuirle in luoghi pubblici, in autobus e treni, nei centri commerciali o nei parchi. Create le vostre barche o scaricate il modulo che comprende le testimonianze scritte di e dei rifugiati e rifugiate e possono essere piegate in barchette di carta. In questo modo, quando la nave di carta è aperta, le voci di chi è più silenziose diventano udibili. Inoltre, ci saranno file audio con le testimonianze registrate dei migranti da scaricare. Voi potete riprodurle in luoghi pubblici, dai balconi o dalle biciclette, in autobus, in treno e altrove, tramite telefoni cellulari o altoparlanti. Sentitevi liberi e libere di scegliere altre azioni o di combinare la nostra chiamata con le vostre richieste. Inviate le immagini delle vostre azioni e delle vostre richieste su Twitter, hashtag CostInSolidarity. Per il diritto di restare e di muoversi, fermate le deportazioni una volta per tutte. Condizioni di vita dignitose e assistenza sanitaria per tutti. Chiudete tutti i campi una volta per tutte. Costruire città e reti di solidarietà. Cambiamo le società dalle loro fondamenta.